fiamme dal cifra mi dica suscita l'amore poiché quella che al cuore onnipotente va mi amo amore amor fra i calici più caldi baci avrà che vi turbò sto meglio ma in conta guisa ucciderete averve d'uopo cura dell'esser vostro e non potrei fosse mia foste custode veglierei per vostri soavidi ne dite ma fosse alcuno perché nessuno al mondo va nessuno tranne sol io ma è vero sì grande amor dimenticato mio ridete e voi buon cor un cor sì forse e a lei lo richiedete ma se ciò fosse non potreste allora cegliar dite davvero io non v'inganno da molto è che mi amate ah sì da un anno un dì felice e tarea mi varerà se innante e da quel dì tremare universo intero, misterioso, misterioso altero, croce, croce delizia, croce delizia, delizia al cor. Ah, se ciò veri, concedemi, sola mi sta, io offro, amore, quasi meno il tuo amore. Io sono franca, scelua, a tacere caro e thank you. Oh, Oh, sì, Viva quasi in cielo, ah sì, io vivo quasi in cielo, io vivo quasi in cielo. Annina, donde vieni? Del commise fu la mia signora. Perché? Era di mar cavalli cocchi e quanto ancor possiede. Che mai sento? Lo spendio grande a viver qui solinghi. E tacevi? Mi fu il silenzio imposto. Imposto? Orma bisogna. Dite Luigi. Orvanne andrò a Parigi. Questo colloquio non sappia la signora. Il tutto valgo a riparare ancora. Manfredo per Parigi or partiva e tu nella pria che tramonti il giorno dir bel mi impose che strano per voi sta ben in breve giungerò un uom d'affari entri all'istante signore sarà lui mi attendo Madamigella Valerie sono io Alfredo il padre me vedete voi sì dell'incauto e a ruina corre ammaliato da voi Tutta sono io, signore ed in mia casa io vi lascio sentite più per voi che per me Vuoi modi pure tratto in error voi foste de suoi beni e gli dono vuol farvi non lo so fino Tanto lusso a tutti è mistero quest'atto a voi non sia ciel che discoprio d'ogni vostro avere Or volete spogliarvi, poi passato perché perché v'accusa. Io non esiste, ora Manfredo, ed io la l'avvenir domandar qui te

al sogno seduttore. Siate di mia famiglia, l'angelo consolatore. Violetta, te pensateci, e siete in tempo ancora, e io che ispira giovine, e Dio che ispira giovine, e Dio che ispira tra i detti angeli tuoi. Supra chiamarlo, ditegli. Non crederò. Partite. Seguirò me. Allora. Thank you. silenzio all'istante. Ed or si scriva lui. Emilio. Mi lasciava, però l'attendo, t'amerà invaderti. E qui non mi sorprenda, lascia che m'allontani. Tu lo calma, ai miei desideri vegeterà, di visi mio non ne vorrà. Sarem felici, perché tu mami, Alfredo, tu mami, non è vero.